Si era avvicinato all'orlo del mare e sabbia umida gli schiaffeggiava le scarpe. La brezza nuova lo salutò, arpeggiando su nervi selvaggi, vento d'aria selvaggia di semi di splendore. Ehi, non sto mica camminando fino alla nave faro di Kish, per caso. Si fermò all'improvviso, mentre i piedi cominciavano ad affondare lentamente nel terreno tremulo, tornare indietro. Voltandosi, scrutò la costa a sud, mentre i piedi ricominciavano ad affondare lentamente in nuove buche. La fredda stanza a cupola della torre attende. Attraverso i barbacani i raggi di luce si muovono sempre, lentamente, sempre come i miei piedi affondano, strisciando verso il crepuscolo sulla meridiana del pavimento. Azzurro crepuscolo, cader della notte, notte azzurra, profonda. Nell'oscurità della cupola attendono le sedie spinte all'indietro, la mia valigia un obelisco, attorno a un desco di piatti abbandonati. Chi per sparecchiarlo? La chiave l'ha lui. Non ci andrò a dormire quando calerà questa notte. Porta chiusa ad una torre silenziosa che chiude in un avello i loro corpi ciechi, il Sahib della pantera e il suo cane da punta. Chiamo, nessuna risposta. Estrasse i piedi dal risucchio e tornò indietro, lungo la gettata di macigni. Prendere tutto, tenere tutto. La mia anima cammina con me, forma delle forme. Così nel cuore delle veglie della luna misuro il sentiero sulle rocce, in nero argenteo, ascoltando il flutto tentatore di Elsinore. Il flutto mi sta seguendo, di cui posso osservarlo scorrere. Torna allora per la strada di Pulberg verso la spiaggia laggiù. Si inerpicò sui carici e le filandre anguillose e si sedette su un panchetto di roccia, appoggiando il bastone in un anfratto. La carcassa enfiata di un cane giaceva abbandonata sui sargassi. Davanti a lui lo scalmiere d'una barca affondata nella sabbia. Encore sans sable, Louis Veillot chiamava così la prosa di Gautier. Queste grevi sabbie sono il linguaggio che la marea e il vento hanno stacciato qui. E là i tumuli di morti costruttori, una garenna di topi d'onnola. Nasconderci dell'oro. Provaci, ne hai. Sabbie e sassi, grevi di passato. Gingilli per Sir Laut. Bada che non te ne arrivi uno dritto sulla testa. Io sono il gigante fottuto che rotola giù tutti sti macigni fottuti, ossa per sassi da guado, ucci, ucci, sento odor d'Irlande zucci. Un puntolino, un cane vivo, ingrandiva a vista d'occhio attraverso la distesa di sabbia. Signore, mi si avventerà contro. Rispetta la sua libertà. Non sarai padrone degli altri o loro schiavo. Ho il bastone. Rimani seduto. Più lontano, in cammino verso la spiaggia dalla marea crestata, figure, due, le due Marie. L'hanno rimboccato al sicuro fra i giunchi. Cucù, ti vedo. No, il cane. Ritorna di corsa verso di loro. Chi? Le galere dei Lochlann qui approdavano in cerca di preda. Con le prue dal rostro sanguinoso che sfioravano la spuma di stagno fuso, vichinghi danesi, con collari di accette luccicanti sui loro petti, al tempo in cui Malachi portava una collana d'oro. Un branco di balenotteri, arenati nel caldo meriggio, spruzzano zampilli, voltolandosi sulle secche. Poi, dalla famelica città di gabbie, un'orda di nani in giubbe di cuoio. La mia gente, con coltelli da scotennatori, che corrono, danno la scalata, trinciano la verde gelatinosa carne di balena. Carestia, peste ed eccidi. Il loro sangue in me, le loro libidini, le mie onde. Mi mossi tra loro sulla liffe ghiacciata, quell'io, scambiato nella culla, in mezzo allo sfrigolio dei fuochi di resina. Io non ho parlato a nessuno, nessuno a me. Il latrato del cane corse verso di lui, si fermò, tornò indietro di corsa. Cane del mio nemico. Rimasi semplicemente ritto, pallido, silenzioso, alle strette, Terribilia meditans. Un giustacuore color primula, il fante della fortuna, sorrise della mia paura. Per questo ti stai angustiando, il latrato dei loro applausi, pretendenti, vivere la loro vita. Il fratello di Bruce, Thomas Fitzgerald, vellutato cavaliere, Perkins Warbeck, famoso rampollo di York, in calzoni di seta color avorio biancorosa, meraviglia d'un giorno, e Lambert Simnel, con un codazzo di sguatteri e vivandieri, lacchè coronato, tutti figli di re, paradiso dei pretendenti allora e oggi. Lui salvò uomini che annegavano, e tu tremi al luggiolio d'un cane bastardo. Ma i cortigiani che beffarono Guido in Or San Michele erano a casa loro, casa di non sappiamo che farcene delle tue astrusaggini medievali. Faresti quel che ha fatto lui? Ci sarebbe una barca vicina, un salvagente. Natürlich, messi là apposta per te. Allora, sì o no? L'uomo che annegò 9 giorni fa al largo di Maidens Rock lo stanno aspettando adesso. La verità, sputala fuori. Lo vorrei. Proverei, non sono un gran nuotatore. Acqua fredda, cedevole. Quando ci tuffavo il viso nel catino a Klonghaus, non ci vedo. Chi c'è dietro di me? Fuori, presto, presto. Vedi la marea che rifluisce prestamente da tutte le parti, invetriando i bassi fondi sabbiosi. Presto, color bacca di cacao. Se avessi terra sotto i piedi. Voglio che la sua vita continui a essere sua, la mia a essere mia. Un uomo che annega. I suoi occhi umani mi urlano dall'orrore della sua morte. Io, con lui, affondando insieme. Non potevo salvarla. Acque, amara morte, perduta. Una donna e un uomo. Le vedo le gonnelle, tirate su con gli spilli, scommetto. Il loro cane abbiava attorno un banco di sabbia rosa dal mare, annusando da tutte le parti, in cerca di qualcosa perduta in una vita precedente. A un tratto partì come una lepre a balzi, orecchie tese indietro, inseguendo l'ombra di un gabbiano in volo radente. Il fischio stridulo dell'uomo gli colpì le orecchie flosce. Si voltò, balzò indietro, si fece più vicino, trotterellò su cosce balenanti. In campo scuro un cerbiatto, saltante a colori naturali, senza bardatura. Al bordo trinato della marea si fermò, rigido, sugli zoccoli anteriori, orecchie puntate verso il mare. Grugno levato, abbaiava contro il rumore delle onde. Greggi di trichechi. Serpeggiavano verso i suoi piedi, arricciolandosi, dispiegando molte creste, di 9 in 9, frangendosi, spruzzando, di lontano. Ancor più di lontano, onde su onde. Raccoglitori di telline. Guardarono un breve tratto nell'acqua e, chinandosi, immersero i sacchi e, rialzatili, guardarono a riva. Il cane abbaiò correndo verso di loro, si rizzò e fece le feste. Ricaduto sulle 4 zampe, si rizzò di nuovo verso di loro con mute moine da orso. Senza che nessuno si curasse di lui, si tenne al loro fianco mentre si avvicinavano alla sabbia più asciutta, uno straccio di lingua lupesca rosso ansimante tra le mascelle. Il suo corpo maculato li precedette d'ambio e poi si slanciò in un galoppo da vitello. La carcassa era sulla sua strada. Si fermò, annusò, aggirò cautamente. Fratello, annusando più da vicino, girò intorno. Fiutando rapido, caninamente, tutto in giro l'immonda spoglia del cane morto. Cranio canino, fiuto canino, occhi a terra, muove verso un'unica grande meta. Ah, povero corpo d'un cane. Qui giace il corpo d'un povero corpo di cane. Cencio, via di là, bastardaccio! L'urlo lo fece tornare quatto quatto dal padrone e un sordo calcio del piede scalzo lo fece volare incolume attraverso una lingua di sabbia, rannicchiato nel volo. Tornò furtivo descrivendo una curva. Non mi vede. Lungo l'orlo della gettata saltellò, si gingillò, annusò una roccia, poi e di sotto la gamba posteriore sollevata ci pisciò sopra. Trottò avanti e, alzando la zampa posteriore, pisciò presto breve contro una roccia non fiutata. I semplici piaceri dei poveri. Le zampe di dietro poi sparpagliarono sabbia, poi quelle davanti rasparono e scavarono. Qualcosa che ha sepolto lì sua nonna. Grufolò nella sabbia, raspando, scavando, poi si fermò ad ascoltare l'aria, raschiò di nuovo la sabbia con furia d'artigli, smettendo presto. Un pardo, una pantera, concepito in adulterio, avvoltoio di morti. Dopo che mi ha svegliato la notte scorsa lo stesso sogno. Oh no, aspetta. Androne aperto, strada di sgualdrine. Ricorda, Harun al-Rashid, quasi ci sono. Quell'uomo mi guidava, parlava. Non avevo paura. Quel suo melone me lo teneva contro la faccia. Sorrideva. Odore di frutto dolciastro. Quella era la regola, disse. Dentro, venga. Tappeto rosso steso. Vedrà chi. Sacco in spalla camminavano faticosamente i rossi egizi. I piedi di lui, illividiti fuor dei calzoni rimboccati, schiaffeggiavano la sabbia umidiccia. Una sciarpa d'un cupo color mattone gli strangolava il collo mal rasato. Con passo donnesco lei lo seguiva, il malandrino e la sua vaga girovaga, il bottino buttato sulla schiena. Sabbia granulosa e detriti di conchiglie le incrostavano i piedi nudi. Attorno al viso, irruvidito dal vento, le pendevano i capelli. Dietro il suo signore, sua compagna, batte la strada all'avventura verso la capitale. Quando la notte nasconde le magagne del suo corpo ad esca di sotto il suo scialle marrone da un andito lordato dai cani. Il suo damo paga da bere a due soldati del Royal Dublin da O'Loughlin di Blackpitts. Sbaciucchiarla, nel gergo furbesco dei malandrini, baldirla, oh, per la mia buona roba baldente. Un candore di diavolessa sotto gli stracci rancidi. Fanballes Lane quella notte, puzzi di conceria. Bianche barre, rossa modana e il brulaccio delicato. Vieni al poltro nella bruna a baciar chi t'ha avvinghiato. Dilettazione morosa, la chiama l'Aquinate pancia d'otre, frate porcospino. Prima della caduta Adamo montava e non si infoiava. Lascia che la chiami. E il brulaccio delicato. Linguaggio per nulla peggiore del suo. Parole fratesche, chicchi di rosario ciangottano nelle loro cintole. Parole furbesche, pepite dure chiocciolano nelle loro scarselle. Ora passa. Un'occhiata sghembo al mio cappello amletico. Se fossi tutto a un tratto nudo qui dove siedo, non lo sono. Attraverso le sabbie di tutto il mondo, seguito dalla spada fiammeggiante del sole, verso occidente, marciando verso terre occidue. Lei strascica, sleppa, traina, tira, rimorchia il suo fardello. Una marea occidua attratta dalla luna nella sua scia. Marei, tempestata da isole a miriadi, in lei, sangue non mio. Oinopa ponton, un mare cupo vinoso. Ecco, l'ancella della luna. Nel sonno l'umido segno annuncia l'ora, le impone di alzarsi. Letto di sposa. Letto di parto, letto di morte, con candele spettrali. Omnis caro ad te veniet. Viene, pallido vampiro, attraverso tempeste i suoi occhi, le sue vele di pipistrello incruentano il mare, bocca al bacio della sua bocca. Ecco, Le dispiace fissarlo subito con uno spillo, le mie tavolette, bocca al suo bacio. No, ce ne vogliono due. Incollali a modo, bocca al bacio della sua bocca. Le sue labbra labbreggiarono e boccheggiarono, scarnite labbra d'aria. Bocca al suo grembo. Ombo, tomba omni grembo. La bocca di lui foggiò l'alito uscente, inarticolato. Oh, i, ah, ruggito di pianeti a cateratte. Globosi, incandescenti, ruggenti, via, via, via, via, via. Carta. Le banconote all'inferno. Lettera del vecchio Tisi. Ecco, ringraziandovi dell'ospitalità, strappa il pezzo rimasto in bianco. Voltando le spalle al sole, si chinò giù su una tavola di roccia e scribacchiò parole. È già la seconda volta che mi scordo di prendere i moduli dal banco della biblioteca. La sua ombra si stendeva sulle rocce, mentre curvo finiva. Perché non infinito fino alla più lontana stella? Oscuramente sono là, dietro questa luce, tenebra splendente nella luce, delta di Cassiopea, mondi. Me, seduto là, con la verga augurale di frassino, con sandali presi a prestito, di giorno presso un mare livido, incontemplato, nella notte violacea passeggio sotto un reame di stelle misteriose. Getto da me quest'ombra finita, ineluttabile umana forma, la richiamo a me. Infinita sarebbe mia, forma della mia forma. Chi mi vede qui? Chi mai, dove che sia, leggerà queste parole scritte? Segni in campo bianco. A qualcuno in qualche posto, con la tua voce più flautata. Il buon vescovo di Cloyne estrasse il velo del tempio dal suo galero, velo dello spazio campito di emblemi colorati. Tieni duro. Colorati su un piano, sì, giusto. Piatto io vedo, poi penso la distanza, vicino, lontano, piatto io vedo, est, indietro. Ah, ora vedo. Ricade dietro un tratto, irrigidito in stereoscopio. Clic ed è fatto. Voi trovate oscure le mie parole. L'oscurità è nelle nostre anime, non vi pare? Più flautata. Le nostre anime ferite di vergogna dai nostri peccati si avvinghiano a noi ancor più. Una donna avvinghiata al suo amante, tanto più quanto più. Si fida di me, la sua mano morbida, gli occhi dalle lunghe ciglia. Ora dove diavolo la sto portando? Di là del velo, nella ineluttabile modalità dell'ineluttabile visualità. Lei, lei, lei, quale lei? La Vergine nella vetrina di Hodges Figgis lunedì in cerca di uno di quei libri alfabetici che tu dovevi scrivere. Che occhiata penetrante le hai dato, il polso attraverso il lacciuolo intrecciato del parasole. Vive a Leeson Park, con una pena e ninnoli, donna di lettere. Parlane con qualcun'altra, Stefanuccio, un tipetto abbordabile. Scommetterei che porta quel busto reggicalze castigo di Dio e calze gialle rammendate con lana bozzolosa. Parla di polpette di mele piuttosto. Dove ha il cervello? Toccami. Occhi morbidi. Mano morbida. Morbida. Morbida. Mi sento solo qui. Oh, toccami presto, ora. Qual è quella parola nota a tutti gli uomini? Sono tranquillo, qui, solo e triste. Toccami, toccami. Si stese supino sulle rocce acuminate, zeppandosi in tasca il biglietto scribacchiato e la matita, col cappello abbassato sugli occhi. È il movimento di Kevin Egan questo che ho fatto quando comincia a sonnecchiare, riposo sabbatico. Et vidit Deus, et erant valde bona. Pronto? Bonjour, benvenuto come fiori di maggio. Di sotto la tesa guardava attraverso ciglia tremule come penne di pavone il sole che muoveva verso il sud. Son colto in questa scena cocente. L'ora di panna, il faunesco meriggio. Tra le piante serpenti grevi di resina, frutta trasudanti lattice, dove sulle onde fulve ampie si stendono le foglie. Il dolore è lontano. Non appartarti più per ruminare. Il suo sguardo si posò meditabondo sulle scarpe dalla punta quadrata, scarti di un cerbiatto, nebe nainandaro. Contò le pieghe del cuoio raggrinzito, là dove un piede altrui si era annidato caldo, il piede che batteva il terreno in tripudio, piede che mi è di scaro. Ma fosti felice quando ti riuscì ad infilare la scarpa di Esther Oswald, ragazza che conosceva Parigi. Tiens, quel petit pied! Amico a tutta prova, anima gemella, l'amore di Wilde che non osava dire il suo nome, il suo braccio, il braccio di Cranley. Ora mi lascerà. Colpa di chi? Son fatto così, son fatto così. O tutto o nulla. In lunghi lazzi dalla vescica di Koch l'acqua rifluiva in piena, ricoprendo verdi dorate lagune di sabbia, salendo, rifluendo. Il mio bastone galleggerà via. Aspetterò. No, scorreranno, scorrendo ribollenti contro le rocce basse, turbinando, scorrendo. Meglio finire questa faccenda presto. Ascolta, una frase ondosa di quattro parole. Sì, su. Alito veemente di acque fra serpenti marini, cavalli impennati, rocce, in coppe di roccia sguazza, plop, blop, blap, imbrigliata in barili. E esausto il suo discorso cessa, fluisce barbugliando, fluendo possente, fiottando fiocchi di spuma, fiore sbocciante. Sotto la marea montante vide le alghe contorte sollevare languidamente e ondulare braccia riluttanti, alzando le gonnelle, nell'acqua sussurrante, ondulando e alto volgendo timide fronde argentee. Giorno per giorno, notte per notte, sollevate, inondate e lasciate cadere. Signore, sono spossate. E in risposta al sussurro, sospirano. Sant'Ambrogio lo udì, il sospiro di foglie e di onde, mentre aspettavano, attendevano la pienezza dei loro tempi. Diebus ac noctibus signoria spatiens ingemiscit. Senza alcun fine raccolte, poi vanamente liberate, fluttuanti in avanti, indietro rivolgenti, telaio della luna, spossata anche lei alla vista di amanti, uomini lascivi, donna ignuda risplendente nelle sue regge, ella trae a sé una rete d'acque. Cinque tese laggiù! A cinque tese tuo padre giace. A luna, disse, rinvenuto annegato. Alta marea alla barra di Dublino, spingendo davanti a sé un ammasso di detriti alla deriva, banchi a ventaglio di pesciolini, sciocche conchiglie. Un cadavere che sorge bianco salino dalla risacca, passo passo un marsuino ballonzolando verso terra. Eccolo là! Uncinalo, presto! Benché sia sprofondato sotto le cuore o piano. Lo teniamo, piano, ora. Sacco di gas cadaverici, mezzo di marcia salmastro, un brulichio di pesciolini, grassi del bocconcino spugnoso, sprizza fuori delle fessure della patta abbottonata. Dio diventa uomo, diventa pesce, diventa oca bernacla, diventa montagna del letto di piuma. Aliti morti, io vivente respiro, calco morta polvere, divoro i rifiuti urinosi di tutti i morti. Issato rigido sopra lo scalmiere, rifiata all'insù il tanfo della sua tomba verde, con le nari lebbrose che russano al sole. Trasformazione marina, questa. Occhi castani, azzurro salino. Morte marina, la più mite di tutte le morti note all'uomo. Il vecchio padre oceano. Pris de Paris. Guardarsi dalle imitazioni, provare per credere, ci siamo divertiti immensamente. Vieni, ho sete, si rannuvola, nessuna nube nera in nessun luogo, vero? Temporale, tutto luce egli cade, superba folgore dell'intelletto, Lucifer, dico, qui nescit occasum, no, il cappello. Bello col nicchio e il bordone e suoi miei sandali calzari. Dove? Verso terre uccidue. L'occaso si troverà. Afferrò l'elsa del bastone, accennando leggermente qualche finta, gingillandosi ancora. Sì, l'occaso si troverà in me, fuori di me. Ogni giorno alla sua fine. A proposito, quando è la prossima? Martedì sarà il giorno più lungo. Di tutto quel lieto anno nuovo. Mamma, taratà, taratà, taratà. Laon Tennyson, poeta gentiluomo. Già, per la vecchia strega dai denti gialli. E Monsieur Drummond, giornalista gentiluomo. Già, e i miei denti sono molto guasti. Chissà perché, sentili. Anche quello se ne sta andando. Gusci vuoti. Dovrei andare dal dentista? Mi domando, con quei soldi, quello, questo, Kinch sdentato, il superuomo. Perché mai, vorrei sapere, o c'è forse un significato? Il mio fazzoletto, l'ha buttato, mi ricordo, non l'ho raccolto. La mano frugò invano nelle tasche. No, non l'ho raccolto, meglio comprarne uno. Depose su un ripiano di roccia il moccio secco che si era cavato dal naso, con cura. Del resto guardi pure chi vuole. Dietro, forse c'è qualcuno. Girò il volto sulla spalla, retro riguardante. Si muovevano nell'aria gli alti pennoni d'un tre alberi, con le vele imbrogliate alle crocette, diretta al porto, controcorrente, muovendo silenziosamente. Nave silenziosa.